Radio 24 Reportage. Europa verso la città che cambia, di Gigi Donelli. Qual è la taglia ideale per la città europea del futuro? Alors, la ville européenne du futur, là vous me posez une question très La città europea del futuro. Beh, mi fa una domanda difficile, ma di sicuro qualcosa le posso dire. Da una parte le dico che non sarà una città piccola. La concentrazione è un valore in termini di sfruttamento della risorsa terra, che non è rinnovabile ed è particolarmente preziosa. La città concentrata, e in parte anche la città verticale, consuma meno della città diffusa. Non sarà una città piccola, dunque, ma non deve essere nemmeno la città gigante che vediamo emergere al di fuori dell'Europa, dal Messico alla Cina, per intenderci. Un'altra cosa che le posso dire, in base agli studi che stiamo facendo all'Agenzia Europea per l'Ambiente, è che se c'è un fenomeno che si va affermando chiaramente in Europa, è quello della progressiva migrazione verso i litorali. La gente si sposta verso le coste e le città con loro. È un fenomeno relativamente recente, ma già chiaro. Quindi, diciamo che le dimensioni demografiche sono indispensabili, ma non devono produrre fenomeni di gigantismo. La città europea del futuro sarà certamente una città a misura di mondializzazione. Oggi, infatti, le città che si affermano con dinamiche vivaci in termini di ricerca, di innovazione e di cultura sono tutte città di dimensioni demografiche importanti. Quale forma dovrà avere la città europea del futuro? Questa è la questione di fondo che si pongono i delegati al quinto summit europeo delle regioni e delle città, in vista del grande incontro delle Nazioni Unite in Brasile nella prossima primavera. In Europa si fa il punto in un convegno che non a caso viene organizzato a Copenaghen, capitale di turno dell'Unione, ma anche avanguardia in quello che è il modello da perseguire per una città europea sostenibile. Can we give them all a round of applause? I always think it's a good idea to applaud the interpreters who do a fantastic job every afternoon. Look at them, they're all here to put them on form. Thank you. We'll start with Madam President of the Committee of the Regions, Mercedes Bressol. Signor Presidente della Commissione, signora Presidente della Regione Capitale, signor Sindaco di Copenaghen, cari colleghi, sindaci, presidenti di regione, colleghi del Comitato delle Regioni, siamo giunti qui in occasione del quinto vertice europeo delle regioni e delle città che tiene la nostra istituzione. Questa volta ci siamo impegnati in una doppia scommessa: promuovere le città nell'agenda europea e in quella mondiale. In particolare, il nostro auspicio è che a Rio sia riconosciuta la necessità di fare delle politiche di sviluppo urbano un elemento fondamentale delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile. Noi abbiamo scelto Copenaghen naturalmente intanto perché attualmente c'è la presidenza danese, ma anche perché è certamente una città esempio per le nuove politiche urbane e capace di dimostrare come da politiche di rinnovamento urbano possono emergere anche grandi opportunità per l'economia, per la creazione di lavoro, per l'innovazione in campo ambientale e sociale. Abbiamo scelto la tematica urbana perché siamo convinti che nelle città nasce l'innovazione, la creatività, si possono coinvolgere i giovani anche su iniziative piccole e medie per rilanciare la qualità della vita nelle nostre città. Se vogliamo vincere le sfide di cui andiamo a discutere a Rio+20, tutte le sfide della green economy, dello sviluppo sostenibile, lo possiamo fare se nelle città si crea un modello di sviluppo sostenibile. Allora, è vero che molte città del nord possono sembrare per noi irraggiungibili. Non credo che sia vero del tutto. Noi abbiamo una tradizione, ad esempio nel nostro paese, di città medie che è assolutamente eccezionale e hanno anche messo in atto processi di rinnovamento urbani importanti. Il tema è: usiamo le risorse e anche le buone pratiche degli altri applicandole alle nostre città, che sono per certi versi il massimo in termini di bellezza, di storia, ma impariamo da queste città soprattutto ad applicare le nuove tecnologie, cioè non guardare solo alla bellezza, ad applicare le nuove tecnologie, a rendere quindi vivibili, a organizzare anche bene la qualità della vita. Di nuovo, non conta solo avere dei bei quartieri, bisogna che il sistema dei trasporti, il sistema dei servizi sia innovativo, efficiente, che risparmi energia, risorse, costi e renda più facile la vita per i cittadini. Vera e propria fuoriclasse del trasporto su due ruote a pedali, Copenaghen svetta solitaria in testa alla classifica Eurostat 2010 sull'uso della bicicletta, cosa che non sorprende. Bicicletta intesa come mezzo di trasporto urbano e prioritario per raggiungere quotidianamente il posto di lavoro. Con il 37% di trasferimenti casa ufficio coperti spingendo sui pedali, la capitale danese si lascia ben dietro Amsterdam, 22%, ma anche la capitale cipriota Nicosia con il 13%. Poi Amburgo, Stoccolma, Dublino che viaggiano sul 5%. Molto più in basso, ben sotto l'1%, troviamo le grandi città italiane, quelle dell'est europeo e della penisola iberica. Tra chi si ispira apertamente al modello danese, nonostante differenze culturali ed economiche importanti, c'è il sindaco di Lisbona, Antonio Costa, che ci spiega i punti dello sforzo di cambiamento senza dimenticare la grave crisi economica. Due priorità: migliorare l'efficienza energetica nos edifici e termos una mobilità più sostenibile. Le priorità di Lisbona oggi sono due: migliorare l'efficienza energetica degli edifici e lavorare sulla mobilità. Quando parlo di mobilità, mi riferisco a un piano molto ampio di trasporto pubblico, che parte dalla creazione di un corridoio di 40 chilometri dedicato esclusivamente al servizio pubblico, alla realizzazione di 450 punti di ricarica per le vetture elettriche private e per quelle che saranno offerte a noleggio a tariffe vantaggiose. E poi anche un investimento molto deciso sul trasporto a due ruote attraverso la costruzione di una rete capillare di piste ciclabili. Lisbona è una città divisa tra collina e pianura e noi vogliamo che la nostra parte pianeggiante diventi la spina dorsale del trasporto individuale su due ruote. C'è anche un altro elemento che intendiamo sviluppare e che riguarda l'ambiente, ma anche il tessuto sociale della nostra città, riprendendo quello che è stato un modello ben conosciuto nel passato del nostro paese. Vogliamo che accanto al giardino urbano ci sia spazio anche per l'orto urbano. Le difficili condizioni economiche che siamo costretti ad affrontare in questa fase storica ci spingono a investire sull'utilizzo economico dello spazio verde. Giardini dunque, ma anche orti che possono permettere, preservando l'ambiente, di assicurare un sostegno alimentare e dunque economico nei quartieri periferici dove lo spazio non manca e le necessità sono comunque significative. Senza peraltro dimenticare che l'orto è un formidabile passatempo, soprattutto per la popolazione dei pensionati. Grazie sindaco. Prego. Da Lisbona a Copenaghen, dalla spagnola Vitoria Gasteiz, città della provincia basca che si è meritata il titolo di capitale verde d'Europa 2012 grazie a un progetto di cintura verde che produce ambiente ed efficienza energetica. Ma ci sono anche gli sforzi di Sofia, capitale afflitta dal traffico, che ha lanciato una campagna per la mobilità alternativa da 62 milioni di euro, 42 dei quali arrivano da Bruxelles. E poi ancora i piani di riconversione delle città minerarie della Polonia che investono sull'efficienza energetica a prova di climi invernali molto rigidi. L'Europa delle città fa insomma i conti con il suo patrimonio urbano, con una popolazione che oggi è quasi al 70% cittadina. 4 europei su 5 vivranno in città nel 2050 e definire oggi le condizioni di sviluppo sostenibile diventa indispensabile per il futuro. E allora ispirarsi, perché no, alla rete dei trasporti della capitale danese Copenaghen è del tutto legittimo anche a est e a sud dell'Europa. Ogni anno nel continente un abitante della città consuma circa 3,5 tonnellate equivalenti di petrolio per scaldarsi, muoversi, ma anche per connettersi a internet. 3 tonnellate e mezzo oggi, erano meno di 2,2 tonnellate nel 1970. Insomma, se c'è una certezza sul nostro futuro è che non possiamo più continuare a bruciare risorse a questo ritmo e che molte risposte andranno cercate proprio nel cuore e nella testa delle nostre città. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.